1 milione di euro per il comune di Sciacca per il restauro del palazzo municipale, 500.000 euro al comune di Menfi, 23 milioni di euro per i treni in Val d'Aosta, 20 milioni alla Calabria per il trasporto pubblico locale, 25 milioni all'Expo. Ma com'è possibile tutto questo? È possibile, è possibilissimo nel decreto Salva Roma. Ne vogliamo parlare con Andrea Sarubbi, che da parlamentare ora è un cronista parlamentare, possiamo dire così. Andrea, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi, buongiorno. E tra l'altro su Twitter è uno di quelli che fa sapere quello che succede alla Camera secondo per secondo, giusto per informare i cittadini, Open Camera. Saluto anche l'onorevole della Lega Gianluca Buonanno, che ne ha combinata un'altra. Onorevole Buonanno, ben trovato. Buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Ride già, cosa c'è da ridere a portare un forcone, sebbene di carta, in Parlamento da brandire? Dopo il cappio al forcone, voi della Lega? No, vabbè, ieri mi sono tappato il naso con una molletta, ho scritto che il decreto puzza, quindi... Ma a me, insomma, puzza. Mentre votavo la fiducia, cioè io la non fiducia, però... Ah, non l'ha votata, eccetera. No. Allora, le presento, insieme a Sarubbi, caro Buonanno, il sindaco di Sciacca, Fabrizio Di Paola. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei sarà molto contento che sia spuntato questo 1 milione di euro per il restauro del palazzo municipale. Ma è davvero serve? Bisogna restaurare questo palazzo municipale a Sciacca? Intanto attendiamo il voto finale. Beh, certo, come sì. Come voi sapete, siamo superstiziosi, giusto. La fiducia, ma il provvedimento deve ancora essere votato nuovamente alla Camera e poi al Senato. Sicuramente serve, perché il Palazzo Municipale di Sciacca è un antico collegio dei Gesuiti che risale al 1500, che purtroppo negli anni non ha subito dei restauri, sì, conservativi, di consolidamento, e quindi serve. Abbastanza importanti. Peraltro quest'estate noi abbiamo avuto anche un crollo e quindi abbiamo dovuto transennare una parte di questo palazzo, in cui vengono anche effettuate delle rappresentazioni, sì, all'aperto, quindi indubbiamente serve. Quindi, certo, questo indubbiamente serve, però sindaco, mi scusi, sì, all'interno del decreto Roma, cioè sinceramente... Ma guardi, io sono il sindaco di Sciacca e quindi io non posso che essere sicuramente contento del fatto che nella mia città arrivi un finanziamento di questo genere. Devo dire con molta franchezza che questo provvedimento nasce da una iniziativa del parlamentare della mia città, del collegio, il senatore Marinello, il quale mi ha informato di questa opportunità. Io ho fatto sapere di questa esigenza del mio palazzo municipale. E lui è riuscito a farla passare. Ho anche detto che noi abbiamo dei progetti, c'è un progetto complessivo, ma anche dei progetti stralcio, perché lei comprenderà, il palazzo municipale di Sciacca è abbastanza grande, ci sono tutti gli uffici comunali, quindi col 1 milione di euro noi riusciremo a fare soltanto alcune un parziale cose. Restauro. No, però è interessante. Allora, il senatore Marinello, ha capito, onorevole Buonanno, il senatore Marinello ce l'ha fatta, diciamo, a perorare la causa del suo collegio elettorale, mettiamola così. Guardi, dico allora al sindaco, dico, vabbè, è un bel regalo di Natale, e va bene, non discuto neanche che ne avesse bisogno, però ci sono 8.103 comuni in Italia. Se ogni comune, che non penso sia figlio di nessuno, ha le sue esigenze, allora sarebbe giusto che a ogni comune, proporzionalmente agli abitanti, gli venisse dato qualcosa. Anch'io nel mio comune ho bisogno dei soldi per la sede municipale piuttosto che per la sistemazione di qualche altra cosa della mia città. Però non mi arriva niente, io non ho santi in paradiso, neanche mi permetto di andare a ricattare, perché questo si fa quando si fanno queste cose, a ricattare Tizio piuttosto che Caio dicendo: se non mi metti questo io non ti voto. E che ricatto il è? Provvedimento. E che ricatto è? Cioè, nel senso, che tipo di ricatto, no, che tipo di ricatto potrebbe fare? La commissione bilancio gli si dice: senti, mi metti dentro sta roba oppure io non ti voto il provvedimento. Scusi, in questo caso il voto del senatore Marinello, visto che ha fatto è così decisivo. Però infatti, fanno tutti così. e quindi alla fine diventa l'assalto alla diligenza. Uno vuole il milione per il Shaq, l'altro li vuole perché deve comprare, adesso sto dicendo delle stupidaggini ma per farci capire, uno c'ha bisogno della carta igienica, l'altro c'ha bisogno l'asciugamano, l'altro c'ha bisogno per Pietrancina, l'altro c'ha bisogno, e quindi danno la prebenda a tutti per stare tutti lì tranquilli, perché comunque serve poi il voto. Vediamo, lo so, Andrea Sarubi, no, ma interessante. È un paese arretrato, cioè siamo ritornati neanche alla prima repubblica, siamo ancora prima della prima repubblica. Andrea Sarubi, è davvero così? Siamo all'anteprima della prima repubblica? Cerchiamo di riportare ordine. la prima cosa è che giustamente nella stampa si semplifica, e io in quanto giornalista insomma cado spesso nella tentazione, no? Quando ho fatto la cronaca in questi giorni per la stampa giornale di Torino, ho parlato del decreto Salva Roma. Se uno va a vedere il titolo di questo decreto, non è che c'è scritto decreto Salva Roma, questo si chiama decreto legge 126 del 31 ottobre eccetera eccetera, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali e interventi localizzati del territorio. Cioè vuol dire, guardate, noi stiamo facendo un decreto che sistema una serie di cose nel territorio. Va bene? Quindi è esplicita, fosse, la cosa. Sì, cioè che fosse, scusate il francesismo, un marchettificio, era scritto proprio nel titolo, dicendo noi stiamo facendo una cosa per sistemare un po' di situazioni sparse per l'Italia. È una novità questa? No, non è una novità. È una cosa brutta dal punto di vista stilistico? Sì, dal punto di vista pratico no, non sempre. Che cos'è questo decreto? È questo decreto che va a piazzare, a tappare dei buchi. Avete sentito adesso il problema di Sciacca, ma se lì hanno un bene culturale che è storico, in America probabilmente diventerebbe l'attrazione migliore del Midwest, se fosse nel Midwest, no? Ci manderebbero i pullman di persone, invece a Sciacca sta crollando a pezzi ed è una roba che ha 5 secoli e passa. È giusto lasciarla a pezzi? No, questo no. Andiamo a dire che schifo l'Italia, beni culturali non li protegge. Però Sarubi si dice, c'è la regione Sicilia che è una regione statuto speciale. Il problema è che finora, dal mio punto di vista, il problema serio di questa roba, mi dispiace che la butto proprio sul discorso serio, però è bene essere onesti, è che ci sono troppi livelli in mezzo, no? Cioè tra Roma, Parlamento e il palazzo di Sciacca, ma cavolo, ma ci abbiamo la Regione Sicilia, ci abbiamo la provincia, ci abbiamo il comune, e nessuno di questi livelli di governo è intervenuto. Allora il cittadino si chiede, ma come? Ma perché devo pagare 3 livelli diversi di governo se poi alla fine devono arrivare i soldi dal Parlamento, da un parlamentare amico? Sì, perché il problema vero è questo, no? Cioè, il problema vero è quello della discrezionalità. Sì, vero che ieri sentiamo se il sindaco di Paola, lei che domanda si fa? Cioè alla fine arriva il tampone a mettere 1 milione di euro per l'imprescindibile importanza che nessuno di noi mette in discussione del palazzo municipale di Sciacca, ma insomma la regione che ha fatto, la provincia che ha fatto, il suo comune che ha fatto? Lei ci dirà che il comune ha subito i tagli e quindi non avete più un euro nelle casse. Chi hanno fatto questi livelli di governo, chiede Sarubi, caro sindaco? Sì, intanto se posso, per quanto riguarda le considerazioni del parlamentare Buonanno, della Lega. Sì. Della Lega. Io non credo che la dinamica parlamentare sia stata questa del ricatto, perlomeno non lo è stata per quanto concerne il senatore Marinello, che non è componente della commissione bilancio. Tanto è vero che al Senato gli emendamenti in favore di vari enti locali, quindi non soltanto del comune di Sciacca, sono passati senza la fiducia, sono passati emendamento per emendamento e sono stati votati dalla maggioranza. In secondo luogo voglio dire, è vero quello che diceva Sarubi, cioè che cosa hanno fatto gli altri livelli di governo, e questo è un tema interessante, perché sicuramente noi oggi come enti locali soffriamo un isolamento rispetto ad altri livelli di governo. La regione siciliana non è vicina a noi, lei deve pensare e dobbiamo pagarlo noi, quindi il comune di Sciacca lo pagheremmo in ogni caso noi, anche se intervenisse la regione siciliana, però lei deve pensare che noi attendiamo ancora i trasferimenti del fondo autonomia della regione siciliana. Lei deve pensare che noi attendiamo ancora che il Ministero di Grazia e Giustizia ci rimborsi le spese che noi sosteniamo annualmente per la gestione e manutenzione del nostro tribunale per un totale di 1.200.000 euro. I comuni oggi non sono più nelle condizioni di fare degli investimenti. Sì, d'altronde, sì. Se posso aggiungere, se a Sciacca dovesse arrivare effettivamente questo finanziamento, sì, e lavoro per la nostra città, per ma nessuno mette in discussione il fatto che il Palazzo Municipale abbia bisogno di restare. Onorevole Bonanni, cioè che dice, ma in Italia ci sono 8.000 comuni, è vero, questo io questo non lo posso perché mettere perché voi ce l'avete fatta, siete stati la verità è questo, onorevole Buonanno, l'ha detto anche Sarubi, è un marchettificio, si sapeva, è stato fesso lei a non riuscire a portare dei soldi per la carta igienica, è la verità. Io le dico, io sono contento di essere stato fesso allora, perché o questo paese cambia mentalità oppure continuiamo in questa cose, il sindaco di Sciacca ha detto adesso io mi aspetto i soldi qui, il tribunale, perché io non li aspetto dal tribunale, perché tutti gli altri comuni che hanno un tribunale non aspettano i soldi dallo Stato, perché comunque a me io devo rispettare il patto di stabilità e c'è un'unica città in Italia che non rispetta il patto di stabilità perché non ce l'ha, si chiama Roma, e nel provvedimento gli regaliamo 155 milioni di euro perché non sanno dove sbattere la testa a Roma e hanno mi sembra che abbiano 4.500 dipendenti, Roma, 4.500 dipendenti, neanche la regione Lombardia ce li ha. Ma questo per dire che così non si va più avanti. Roma ha un debito vero di 18 miliardi di euro. Come 18 miliardi? 816 milioni. No, 18 miliardi di euro certificati. E dove gli viene questa cifra? Da tutti gli anni pregressi, quando hanno governato Veltroni, Rutelli, Alemanno, compagnia bella, 18 miliardi di euro che devono pagare. Sapete come le pagano? Hanno fatto un accordo con lo Stato dove devono restituire 500 milioni di euro all'anno. Sa come vengono pagati questi 500 milioni di euro? Sì. 350 gliele regala lo Stato stesso, si figuri. E gli altri 150 teoricamente dovrebbe metterli il Comune di Roma. Che dovrebbe fare? Dovrebbe fallire? Lei lo farebbe fallire il Comune di Roma? Ma certamente sì, ma piantiamola lì. Ma poi Roma, dico, 4.500 dipendenti, poi cosa spende? Milioni di euro per consulenze, poi si guarda l'ATAC, che è quella dei trasporti, che c'ha un buco da più di un miliardo. Ne abbiamo parlato. Ma come si fa? Ma lui diceva, il sindaco di Sciacca della Sicilia, siamo aggiustati male. È benissimo, avete 25.000 dipendenti regionali, non siete capaci neanche di pagarli. Ma che cosa volete da voi? Siete l'unica regione in Italia, la Sicilia, che si tiene il 100% delle tasse. Noi al nord, diciamo, ci teniamo il 75%, siamo razzisti, brutti. Vabbè, 100% delle tasse perché hanno ragione statuto speciale. Qui Sarubi, la questione Sarubi, qua torna la questione, insomma, del leghista contro Roma e contro la Sicilia. Il leghista contro Roma mi fa un po' sorridere, perché il 19 giugno del 2008 venne approvata una norma che si chiamava guarda caso Salva Roma, il governo girava a Campidoglio 500 milioni di euro, la Lega lo votava, la differenza era che il sindaco era Alemanno, quindi insomma mi sembra che un po' questa anti-romanità di Roma sia intermittente a seconda che ci sia un sindaco amico o nemico. Il problema serio secondo me è un po' questo, cioè, ed è questo il problema serio anche del decreto enti locali o Salva Roma, come volete, è che alla fine la maggioranza che comanda di volta in volta va a privilegiare le amministrazioni amiche o presunte tali o possibili tali. Addirittura ieri c'è stato un intervento di Forza Italia che ha accusato il nuovo centrodestra di aiutare dei sindaci ex PDL per poi comprarsi, tra virgolette, il loro passaggio nel nuovo centrodestra anziché in Forza Italia. Questo è un po' il problema serio, cioè il problema serio è la discrezionalità totale, però non il fatto che questi interventi non servano, perché sembra veramente che poi sia stata la cosa degli sprechi, eccetera. Io sono profondamente convinto che la stragrande maggioranza di questi interventi servissero tutti e anche da molto tempo e che arrivassero in ritardo. Il problema molto serio è che arrivino tramite forma di mancia un parlamentare amico. Tant'è vero che ieri su Facebook c'era una polemica di un mio amico di Albenga che si chiama Eraldo Ciangherotti, che è certamente più vicino al centrodestra che non al centrosinistra, che ironizzava sul fatto che il parlamentare del PD di Albenga non avesse portato a casa neanche un centesimo. Tutti hanno portato qualcosa. Noi abbiamo il cinema che cade a pezzi e questo qua euro. Io sono due giorni che faccio appello ai parlamentari, trovassero un 200.000 euro per la mia Prosesto, società gloriosa che ha 100 anni di storia. Alessandro, posso raccontarti il caso mio personale di legge mancia? Sì. Allora, guarda, attenzione, attenzione. Ascolta, no, questo è, diciamo, è un coming out questo qua. Allora, scorsa legislatura, verso la fine della legislatura, come spesso accade, è la legge mancia. Si comincia a parlare di questa legge mancia, per dei fondi che non erano stati impiegati, eccetera, eccetera. Il Partito Democratico inizialmente sembra favorevole, e quindi mi arriva una telefonata dal Partito Democratico dicendo: guarda Andrea, tu sei una delle persone più impegnate sul sociale, siccome abbiamo questi soldi a disposizione, pensa a un progetto secondo te nel quale possano essere impegnati. Mi raccomando, roba seria, tu sei una persona seria, quindi ci fidiamo di te. Io un progetto l'avevo, e ce l'ho ancora purtroppo, anzi siamo sotto Natale, quindi faccio pubblicità, si chiama Calcio Sociale, è un campo di calcio, una bella struttura che dovrebbe essere fatta al Serpentone, che è il palazzo lungo un chilometro, bruttissimo a Roma, diciamo a Corviale, quartiere, per togliere i ragazzi dalla strada. E a un certo punto dico, vabbè, allora metto insieme un po' di parlamentari, perché avevamo tutti quanti una quota, ma non mi ricordo se era tipo 15.000, 20.000 euro, una cosa del genere. Io dico, anziché fare delle stupidaggini, una per una, metto insieme una serie di parlamentari, raccolgo una serie di firme e dico, così risolviamo un problema, perché questa è una roba che il governo avrebbe dovuto finanziare da una vita, no? Se ci fosse stato, la regione avrebbe dovuto finanziare da una vita, il comune, se avesse avuto soldi, e tutti quanti dicevano sì, siamo favorevolissimi. Era una vita che io cercavo sponsor, la fondazione Vodafone, qualcosa, ma non riuscivo a sbloccarla. E allora alla fine metto insieme diversi parlamentari e riesco ad avere una quota, così mi dico, insomma, che avrebbe risolto il problema. Addirittura veniva forse 100-150 mila euro e avremmo costruito questo campo. Voti miei, ma che non credo proprio, cioè nel senso che questo era un campo fatto per ragazzi ai margini della periferia romana. Arriviamo alla fine e il Partito Democratico dice: Andrea, guarda, la pressione sulla legge mancia è tale che noi abbiamo deciso di non farla più, perché altrimenti sembriamo quelli che appunto fanno marchette, sempre, scusate il francesimo, e quindi salta il calcio sociale. Io ovviamente ho detto, cavolo, una volta nella vita era quasi arrivato, non gli ha fatto, no, ma infatti facciamo così, andiamo un attimo a sentire, devo dare due minuti di pubblicità, poi con Buonanno Sarubi e col sindaco di Sciacca di Paola ci raggiungerà anche il sindaco di Pietrelcina, visto che l'abbiamo nominata, anche lì 500.000 euro, lì pare che non ci siano stati parlamentari che abbiano fatto pressione, perché ha provveduto Padre Pio. 24 mattino. Eccoci, 24 mattino, siamo in diretta alla vigilia di Natale e insieme ad Andrea Sarubi, insieme all'onorevole Buonanno della Lega, insieme al sindaco di Sciacca, Fabrizio Di Paola, Sciacca in provincia di Agrigento, non l'ho detto, ci ha raggiunto il sindaco di Pietrelcina in provincia di Benevento, Domenico Masone. Sindaco, buongiorno. So che sta poco bene e la ringrazio per essere con noi. Buongiorno a tutti gli ospiti, naturalmente. Mi scuso della voce, ma sono influenzato. Va bene, sindaco, non si preoccupi. Mi faccia sentire un ascoltatore, stiamo parlando di questo decreto cosiddetto Salva Roma, nel quale c'è tutto, dentro di tutto. Filippo da Roma, buongiorno Filippo. Buongiorno. Che pensa? Buongiorno a tutti. Allora, volevo dire che in realtà per noi cittadini contribuenti l'importante è che le cose si facciano. Sembra molto semplice, però diciamo si comincerà da Sciacca. I soldi sono pubblici, vengono spesi. Mi raccomando, controlliamo che le cose vengano fatte e che vengano fatte bene. L'importante è quello. Quindi lei non trova assolutamente nulla di scandaloso, no, nel fatto che le cose da fare sono tantissime. Dobbiamo cominciare a mettere delle righe sulle cose fatte. Se noi litighiamo sul fatto che i soldi debbano andare lì piuttosto che da un'altra parte, non arriviamo mai. Va bene. Io sono stato presente a Roma, al Comune di Roma, quando si discutevano gli emendamenti e si facevano le nottate per discutere ogni emendamento, e lì c'era l'idea di fare per Roma un sistema come il Parlamento, quindi con la fiducia per il Consiglio Comunale. Sì. Altrimenti vengono presentati degli emendamenti, forse questi cittadini non lo sanno, sono degli emendamenti su ogni tipo di provvedimento. Che blocca. E questo serve a bloccare completamente il Consiglio. Va bene, insomma, lei Filippo dice bene che si facciano le cose. Io ricordo il numero per intervenire, 800 24 00 24. L'onorevole Buonanno non sarà molto contento di questo intervento di Filippo, ma Buonanno, le faccio sentire allora il sindaco di Pietrelcina. Caro sindaco, uno mi ha scritto via Twitter: ma perché anche soldi per Padre Pio? Quanti soldi sono destinati in questo provvedimento? Credo 500.000 euro, sindaco Masone. Ho voluto intervenire nonostante l'influenza, perché noi non c'entriamo né col Salva Roma né con altro. Noi siamo oggetti di una legge del 2001, la numero 80. Insieme a Sotto il Monte ebbi il piacere e l'onore di conoscere l'onorevole Maroni, con cui insieme facemmo questa legge per riconoscere l'oggettività di questi luoghi. Lei pensi che parla di Pietrelcina di 3.000 abitanti, in cui si sono riversati in passato 2 milioni di visitatori, adesso siamo sui 600-700 mila, sì. Ed ha un normale bilancio di un comune, affinché possa ospitarli decorosamente. Lei sa che anche l'accoglienza, la polizia locale, vabbè, la chiaro, ha un costo, cioè, è tutto chiaro. Questo, allora chiedemmo una legge speciale per noi e per Sotto il Monte, che veniva per 3 anni e poi è venuta sempre rifinanziata, scendendo con i costi fino ad arrivare a 500.000, debitamente rendicontata. Sì. Ora o andava nel Salva Roma, e ogni anno c'è questa ogni anno c'è questa mortificazione, anche perché poi è diminuito il trasferimento dello Stato, per cui è diventato paradossalmente un fondo perequativo, perché solo Pietrelcina, 3.000 abitanti, con quello che le ho detto, ha un trasferimento di 435.000 euro. Un paesino vicino a noi, di 3.000 abitanti alla stessa maniera, ha un trasferimento di circa 1 milione di euro. Allora, mi faccia capire, sindaco, mi faccia capire se ho capito bene. No, ma è chiaro, sindaco, mi scusi. Non prendiamo niente, facciamo... Va bene, si fermi un attimo, che anche la febbre. Mi faccia capire se ho capito bene. Arrivano i soldi a voi perché ci sono tutti i pellegrini che vengono a sacrare il Padre Pio, e quindi c'è una, come dire, ci sono tante persone da gestire anche dal punto di vista delle, e quindi c'è una legge speciale che ogni anno vi garantisce dei fondi, e ogni anno viene messa, questo è il concetto, sindaco, vengono messi questi fondi nel primo provvedimento che capita, mi sembra di capire. Noi chiediamo, ma l'ha reso Ciampi, ci diede il titolo di città. La regione Campania ci fa pereguare a 15.000 abitanti con nessun effetto, ma ci riconosce l'oggettiva necessità. Ora però le dicevo che noi non abbiamo nemmeno la specialità, questi fondi non sono che perequativi rispetto alla normalità. Se noi non li avessimo, noi abbiamo 141 euro pro capite. Se è vero che possiamo stare così, abbiamo risolto i problemi della nostra revisione di spesa, perché se si equiparassero al nostro costo, se fosse standard, tutti i comuni dovrebbero dimezzare di qualsiasi latitudine, dimezzare, se arrivassero a 141 euro pro capite. Noi avremmo decine di miliardi. No, ma lei l'ha chiamata anche una mortificazione. A prescindere da Padre Pio. No, ma è chiaro. Capito, onorevole Buonanno, l'ha chiamata anche una mortificazione, il fatto che ogni anno debba essere trovato un provvedimento per dare ciò che spetta a Pietrelcina. Lo spetta per una legge, ha citato anche Maroni, quindi... No, ma guarda che io, innanzitutto non ce l'ho con i sindaci con cui... si è in trasmissione, anzi, però è una guerra tra poveri, cioè questo paese deve essere ristrutturato completamente. Io non discuto che Pietrelcina abbia bisogno di questi denari, e tra l'altro essendo un credente sono ben contento che gli arrivino questi soldi, però il discorso è che ci sono tante realtà in questo paese che hanno gli stessi diritti, lo stesso esempio che faceva il sindaco, cioè di un comune vicino che prende di trasferimenti ben più soldi di lui. È lo stesso motivo per cui io dico perché a Varallo Sesia non ci debbano essere determinate cose come in Valsesia piuttosto che in qualche altra parte d'Italia, e non ci deve essere il padrino di turno, visto che si parla di Sicilia nel caso invece di Sciacca, che deve portare a casa il 1 milione di euro. Il padrino di turno che va lì a perorare una causa, certo non è in commissione bilancio, ma siccome non succedono i miracoli per ma niente, padrino buon anno non è un bel termine usare, sindaco di Parma, padrino si chiama uno che va per orare la causa. Ho capito, ma padrino, padrino buon anno. Non è un padrino. No, fa il suo dovere, difende il suo territorio. Difende il suo territorio, ha sentito, buon anno. Difendo anch'io, e venerdì quando torno in Parlamento cosa faccio? Prendo una sciabola e difendo il mio territorio e dico anch'io voglio i soldi che mi spettano? Ma che cosa? Ma no, ma che sciabola, dai, buon anno, lasciamola. Ma che cosa? Ma sì, ma stiamo scherzando, cioè, allora è giusto che io porto il forcone, ma... perché mi sono rotto le palle di sentire storie di questo genere, perché i soldi dobbiamo regalarli a Roma, perché c'hai buchi, 18 miliardi di debito, e sfido chiunque a denunciarmi se non è vero, 18 miliardi di euro, più di una finanziaria del nostro Stato. 18 miliardi ancora, sindaco di Paola, sindaco di Sciacca, qua insomma volano anche parole. A Napoli c'è le bondite, dall'altra parte piangono, ma aspetti, buon anno, aspetti. Noi ci lamentiamo che in questo momento c'è una legge elettorale per cui il parlamentare non risponde più al territorio, non rappresenta più i cittadini. C'è un parlamentare che cerca di difendere il suo territorio, che cerca di portare avanti iniziative per la sua città, per il suo collegio, e ce la fa. E lo condanniamo e lo qualifichiamo padrino, ma davvero, veramente, in questa nazione forse abbiamo perso un po' il senso della misura. Può anche essere vero quello che si dice, condivido il fatto che la regione siciliana è una regione che deve fare i conti bene con i costi della politica. Io non sono qui a difendere la regione siciliana, non me ne importa nulla. Anzi, sono il primo a dire che in questa spending review in cui si sono pregiudicati gli enti locali non si è tenuto conto che ci sono altri livelli di governo, a partire dalla regione, ma anche a partire dallo Stato, dal governo, dal Parlamento, in cui piuttosto che togliere soldi ai poveri enti locali dovremmo capire dove sta il cancro dei costi della politica in questi livelli di governo. Io su questo sono perfettamente d'accordo, ma noi non possiamo assolutamente condannare, ragione il radioascoltatore, non possiamo condannare un provvedimento che, come si diceva opportunamente, non riguarda solo Roma, riguarda misure a favore degli enti locali, in cui si prova a fare qualcosa. No, certo, si prova a fare qualcosa, dopodiché qualcuno il mio compito, quello di vigilare, ci mancherebbe, questi soldi saranno spesi opportunamente oppure ci no, mancherebbe questo, sindaco. La mia responsabilità su questo ci mancherebbe, sindaco, devo dire che però c'è il dato di fatto che qualcuno è stato più bravo di altri, ma questo può essere davvero una colpa, non lo so, oppure c'erano delle esigenze più impellenti rispetto ad altre. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi molti che dicono, ma come diamo i soldi a Padre Pio? Ma ce l'ha spiegato il sindaco, non è che diamo i soldi per Padre Pio, e comunque lì vengono una massa di fedeli e questo comporta un aggravio ai costi dell'amministrazione comunale. Questa cosa, almeno vogliamo tutti concordare che è così, uno che porta in un comune di 3.000 abitanti, che ne so, 100.000 persone all'anno, dico una cifra, sporcheranno? Ci sarà poi la gestione dei rifiuti? Su questo, se non siamo d'accordo, ragazzi, è come avere le fette di salame sugli occhi, La verità alle 8:48 minuti, caro Andrea Sarubbi, è che ci sono i lobbisti. Ma ce li vuoi descrivere tu che sei stato? Chi sono questi? Sarebbero questi lobbisti che fanno queste pressioni, che riescono a ottenere cose che nessuno. Ecco, è un lobbista che ti sta chiamando. È un lobbista. Appena abbiamo nominato il lobbista, subito arriva la telefonata. Non parlare male. Non parlare male dei lobbisti. No, io i lobbisti ne ho conosciuti diversi da parlamentare, e fosse per me li regolamenterei. Come sono tutti? Come sono gobbi, storti, brutti? Perché dirò una cosa che può sembrare impopolare, però una persona che va in Parlamento normalmente ha una specificità su un campo, no? Cioè, o è un politico di professione e quindi sa un po' di tutto, ma più che altro sa gestire i rapporti, le relazioni umane. Oppure è uno specialista di un campo, che ne so, un medico, un giornalista, un avvocato, quello che è, insomma, cioè, ma non può sapere tutto di tutto. Ed è molto facile che quando ci sono delle leggi si metta un po' a studiare. Normalmente le persone che ne sanno di più in determinati campi sono quelli che lavorano per delle parti in causa, coinvolte, no? Cioè, faccio un esempio, se io dovessi parlare di emittenza radiofonica, probabilmente una chiacchierata con Radio 24 me la farei volentieri. Certo. Allora, se dovessi parlare della redistribuzione delle frequenze oppure dei soldi all'editoria che vadano dati alle radio, che vadano dati ai giornali, che vadano dati all'online, eccetera, io mi farei una chiacchierata sia con la FIEG, la Federazione Italiana degli Editori dei Giornali, sia con l'Ordine dei Giornalisti, sia probabilmente con qualche esperto di bilancio dello Stato. Ognuna di queste persone porta le proprie ragioni e a mio parere non c'è nulla di male nell'ascoltare. No, anche secondo me. Faccio un esempio. giochi d'azzardo. Io ero palesemente no slot, anzi ero proprio, cioè ho fatto vedere i sorci verdi, come si dice a Roma, nella scorsa legislatura sulle no slot. Però per avere un'idea chiara, per non fare veramente il pierino e basta, io oltre all'associazione no slot che conoscevo molto bene, andavo ad ascoltare anche molti dei giochi online, cioè li ricevevo in continuazione, perché loro vedevano i miei interventi, dicevano: onorevole, mi scusi, ma lei non ha capito questo. Certo, quindi certo. Le ragioni di tutti andavo a prenderle. Allora, dov'è il discrimine? Il discrimine sono due. Il primo è che vengono lì in segreto, nascosti, incappucciati, spesso portati da conoscenti e amici che dicono: guarda, io ho un amico parlamentare, adesso ti ci faccio parlare. E questo non va bene, perché dovrebbero essere cose che avvengono alla luce del sole. La seconda cosa è che poi si gioca lì l'autonomia del parlamentare. No, cioè, no, la cosa terribile che ha mostrato il Movimento 5 Stelle, e io personalmente da cittadino italiano gliene sono grato al Movimento 5 Stelle, pur essendo uno di quelli che litiga di più col Movimento 5 Stelle, è che hanno detto il nome e il cognome di una persona che stava lì dentro e ha rivendicato la propria vittoria con i referenti, che evidentemente non credo lo facesse gratis per loro, condizionando tutto. Allora, questa è la cosa sbagliata. Cioè, magari aveva anche ragione sul punto specifico, ma non deve avvenire in questo modo. No, non deve avvenire così come... Allora, io devo fare un piacere a Alessandro Milan, no? Sì, devo dire che d'ora in poi tutte le squadre rossonere hanno 28 punti più in campionato. Grande. Per credo, così faccio un esempio. Grande. Per dire, no? Naturalmente. e poi dopo lo chiamo e dico: oh, siamo riusciti a dare a Milan 28 punti più in campionato, visto che siete primi in classifica. Sì, sì, ecco, sì, no, è chiaro. È come se fosse portare veramente acqua al mulino. Allora, sindaco Masone di Pietralcina, quindi lei ci sta dicendo è tutto. Che cosa risponde a chi dice: ma dai, soldi per Padre Pio, no, siamo in un paese laico, come è possibile? Già le ho detto che a prescindere da Padre Pio, perché questo piccolo paesino poi diventa anche un volano, 600.000 persone per l'intero territorio, per l'economia, quindi anche, ha anche effetti, quindi non sono buttati. Ma io le dico questo: l'importante, e sono d'accordo anche con l'onorevole Bonanno, deve essere tutto rendicontato, e chi amministra, specie nelle piccole comunità, deve, per essere autorevole, deve prima lui fare i sacrifici. Noi ricevamo tutti lo stipendio, noi vogliamo che si rendi conto il tutto, perché deve essere chiaro e lapalissiano che ogni cosa che si fa lo si deve fare nell'interesse della gente e nella sobrietà, anche visto il momento particolare dell'Italia. Io potrei dire che noi abbiamo, per esempio, province autonome che ope legis gravano sul bilancio dello Stato con privilegi, eccetera, anche motivati, perché una nostra motivazione non può avere la pari dignità. No, ma è chiaro, ne ha avuta di pari dignità, sindaco. Io, buon anno, nel chiudere questo, che devo dire, lei il forcone l'ha portato, ma il forcone, perché cioè lei proprio sta coi forconi allora. Guardi, io sto con, siccome 20 anni fare il sindaco, quindi capisco i colleghi e capisco che cosa significa stare in mezzo alla gente e non stare dentro il palazzo, mi rendo conto che nel palazzo troppa gente non ha capito niente, vive su un altro pianeta, e quindi ho cercato in maniera simbolica di far capire che tanta gente che protesta, c'è qualcuno nel palazzo che li capisce. Com'è che ha detto: l'ho portato dentro come Clint Eastwood in fuga da Alcatraz. Perché, mio, ma come si fa? Buon anno! No, ma è vero, perché buon io anno! Dico una cosa che si spaventano tutti. Sì. Io ho portato dentro il forcone vero, quello vero, cioè preso da una ferramenta. Come il problema vero? È che poi mi hanno spiegato che poteva essere individuato come un'arma vera, come fosse una pistola. Allora rischiavo parecchio. Allora ho pensato, sentendo anche le parole del Santo Padre, che è giusto, diciamo così, dire le proprie opinioni, cercare di protestare, ma in maniera civile e senza violenza, e quindi l'ho fatto di cartone, prendendo il cartone da un ufficio di una scatola lì messa da buttare. Vabbè. E quindi quando sono entrato con il forcone vero ho fatto Clint Eastwood davvero. Ah, con il Clint Eastwood, cioè con il forcone sotto l'impermeabile, mamma mia. Va bene, smontato. Dai. Comunque io... è Natale, quindi vogliamoci bene. Ecco, vogliamoci bene, punto. Sarà meglio così. Devo chiudere, vi devo ringraziare. ringraziare Andrea Sarubbi, Gianluca Buonanno della Lega, il sindaci di Sciacca Fabrizio Di Paola e di Pietrelcina Domenico Masone, vi ringrazio per essere stati con noi e voglio chiudere anche oggi, come promesso, noi stiamo seguendo le 24 famiglie bloccate da oltre un mese in Congo, siamo anche oggi collegati con Guido Tota, uno dei genitori di questi bambini adottati che sono bloccati di Tota, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno. Allora, come detto, voi con grande animo dite almeno riusciremo a passare il Natale con i vostri bambini, che vogliamo ricordare sono bambini vostri a tutti gli effetti, riconosciuti dalla legge anche del Congo, adozioni internazionali, portano il vostro cognome. Oggi ho letto questa notizia sui giornali, vi appellate, o meglio alcune famiglie, non so se anche voi, al Papa. Ma quando uno si appella al Papa vuol dire che non crede più alle istituzioni del proprio paese, se deve, con tutto rispetto, rispetto a appellarsi al Papa. Effettivamente, diciamo, un appello che abbiamo anche diciamo, inviato noi, perché si sta cercando in tutte le maniere di arrivare ai vertici delle autorità congolesi, quindi anche il canale ecclesiastico per noi è molto importante. Poi crediamo in questo Papa che è un uomo che ha sempre dimostrato di essere dalla parte di chi soffre, di chi ha i problemi, e quindi anche noi ci uniamo in questo appello, ci siamo uniti in questo appello. No, ma questo certamente, tutto ciò che può fare bene, può essere d'aiuto, è una cosa positiva. Senta, ma ci sono dei segnali, ogni 24 ore io glielo chiedo, ma sa, queste cose possono cambiare anche ogni 24 ore, ci sono stati dei segnali da ieri, per esempio so che ieri il ministro Chienga ha incontrato i responsabili delle associazioni che hanno gestito le vostre adozioni, e quindi? Sì, sappiamo di questo incontro, però non abbiamo ancora avuto notizie su eventuali nuove strategie, nuove cose da provare. Per ora siamo qui in attesa e francamente ci stiamo preparando per festeggiare Natale con i bambini, abbiamo comprato dei regalini per tutto l'orfanotrofio e così da mangiare, insomma, festeggeremo il Natale come si può qui a Kinshasa. Questo certamente. Che farete questa sera o domani? Che avete in programma di bello? Ce lo dica. Nel nostro piccolo, per quello che si può fare, cercheremo di festeggiare il Natale con i bambini, mangeremo un po' di pasta, perché qui non è una cosa scontata. Chiaramente. E poi abbiamo preparato i regalini da dare poi a tutti i bambini del fratofio, che sono tanti. E dopodiché dall'ambasciata del Congo, l'ambasciata italiana in Congo, avete novità, oppure il timore è che, come dire, ci si risente il 6 gennaio? Ora no, questo, cioè, sono sicuro anche che l'ambasciatore e tutto lo staff del Ministero degli Esteri e la ministra Kenge stiano cercando in tutte le maniere di sbloccare la situazione. Noi abbiamo deciso per il Natale, visto e considerato che la situazione è questa, di aspettare e vedere un po' che cosa succede. Però dei visti non abbiamo ancora avuto nessuna notizia. Nessuna notizia. E guardi, signor Totti, io non so che dire, davvero anche oggi vi mandiamo il nostro grande abbraccio. Buon Natale anche e soprattutto a voi, buon Natale a tutti. Che dire, 24 mattino continua, io mi fermerò un po', ci sarà qualcosa di me il 27 e poi ci rivedremo il 7 gennaio. Ciao a tutti. 24 mattino.